Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Dal 2 ottobre del 1950 fino al 13 febbraio del 2000, quindi per quasi 50 anni, ogni giorno, domenica compresa, i giornali americani sono stati benedetti dalle strisce dei Peanuts, 50 anni in cui le storie di Charlie Brown e dei suoi amici, quattro vignette al massimo, hanno reso felici molti di voi e di noi. Non siete gli unici, perché nel loro momento di massimo splendore i Peanuts venivano pubblicati su 2600 giornali in 75 paesi, con più di 350 milioni di lettori in tutto il mondo. Per tutti questi anni l'ideatore, l'autore, il disegnatore di ogni singola strip, e si calcola che ne siano state prodotte quasi 18.000, è stato un uomo solo, Charles Schulz. If you read the comic strip every day, or if you read all of the books, se leggete le strisce tutti i giorni, o se leggete tutti i libri, se leggete quello che i personaggi fanno o dicono, capirete come sono, perché tutto quello che penso e faccio va nelle strisce. Goes into the strip itself. Beh, a giudicare dalle strisce dei Peanuts, Charles Schulz sembra una persona veramente speciale. Lui nasce nel 22, è il figlio unico di una coppia di immigrati, un tedesco e una norvegese, che vivono in una zona isolata del Minnesota, e fin da piccolo dimostra una grande attitudine al disegno. È molto legato alla mamma e a un cane. Attenzione, di che razza? Beh, ovviamente un bracchetto. Avevo un cane quando avevo circa 13 anni, che assomigliava molto a Snoopy, almeno fisicamente. Ma era un cane un po' selvaggio, anche se aveva un certo vocabolario. Una volta contai che riusciva a comprendere almeno una cinquantina di parole. Quindi in un certo senso è stato una specie di ispirazione per Snoopy. Il cane di Schulz però si chiama Spike, che, come vedremo, diventerà il nome del fratello di Snoopy, quel cane buffo con i baffi spioventi, col cappello, quello che vive nel deserto. Il soprannome di Schulz invece è Sparky, come lo chiamano a casa. Insomma, il suo primo disegno è ovviamente un piccolo ritratto del suo cane, firmato, disegnato da Sparky. Schulz lo spedisce a una pubblicazione che raccoglie eventi strani. Secondo Schulz, il suo cane, che mangia graffette e lame di rasoi, è abbastanza strano. I always liked cartoons. Ho sempre amato i fumetti, e fin da quando ero un bambino seguivo appassionatamente le strisce su diversi giornali, e sapevo che se uno ci si metteva sul serio, forse un giorno avrebbe potuto avere la sua striscia. Questo è stato quello che ho sempre voluto fare tutta la mia vita. E quando ero piccolo mi esercitavo disegnando Topolino, Braccio di Ferro e tutti i grandi personaggi di quando ero piccolo. Schulz frequenta con molto onore il liceo, però è uno studente solitario e timido. A casa la madre si è ammalata, lui passa tutto il tempo accanto a lei a disegnare. Si iscrive anche a un corso di disegno per corrispondenza, pur di migliorare il suo tratto e soprattutto per poter continuare a stare a casa per conto suo. Sfortunatamente non ho ricevuto un'ottima istruzione. Ho solo il diploma. Ho studiato arte con un corso per corrispondenza perché avevo paura di andare in una scuola d'arte. Non riuscivo a vedermi seduto in una stanza dove chiunque poteva disegnare meglio di me. E quindi, in un certo senso, mi sono sentito più protetto disegnando da solo a casa mia e inviando i miei disegni, così da evitare le critiche. Quando nel 43 la mamma muore di cancro per Sparky, il colpo è durissimo. E quando arriva la chiamata alle armi, per lui è quasi un modo per distrarsi. Però viene spedito in Europa come sergente in una squadra che utilizza una mitragliatrice pesante. Per fortuna la guerra finisce, a Schulz capita di sparare solo una volta con l'arma e per fortuna si è dimenticato di caricarla, per fortuna del soldato tedesco su quale ha puntato la mitragliatrice. dice, e il soldato si arrende prima di accorgersi della cosa. Quando Schulz torna in patria, continua nella sua attività preferita, spedisce dei disegni a riviste, a poco vede che i suoi sforzi danno dei frutti perché arrivano i primi consensi. Quando avevo poco più di 20 anni, iniziai a capire che stavo migliorando sempre di più e che stavo iniziando a raggiungere qualche risultato. C'è voluta una lunga preparazione, molto pensare, molte idee spedite per posta. E poi, dopo qualche anno, risultò che fra le cose che spedivo ai giornali piacevano soprattutto le strisce che parlavano di bambini. E così iniziai a sperimentare questa formula in cui i bambini sembra che dicono cose un po' da adulti. E gli sforzi e le idee di Schulz incontrano un primo successo quando dal 47 al 50 riesce a farsi pubblicare una serie di vignette composte da un solo riquadro che intitola Lil Folks, più o meno personcine, le antesignane dei Peanuts, in questo periodo che appare per la prima volta un personaggio di nome Charlie Brown con il suo cane che si chiama Snoopy. Per Schulz è un grande traguardo, ce lo racconta anche il grande cartoonist Julius Pfeiffer. La gente non si rende conto dello status che avevano i fumetti per un autore che avesse delle ambizioni. Perché oggi i fumetti sono molto meno importanti di un tempo. Il falco e il gabbiano. Charles Schulz, il creatore dei Peanuts, inizia la sua carriera disegnando la sua prima striscia, ma per sopravvivere queste poche strisce non bastano. Deve fare l'insegnante in una scuola d'arte. Quando il giornale per cui pubblica decide di interrompere la serie, Schulz prova a sottoporla a una grande agenzia di stampa, la United Feature Syndicate, che si mostra interessata. Questa volta Schulz però amplia gli orizzonti e presenta una versione non più di una sola vignetta ma di 4 riquadri. La dimensione sembra essere quella ideale, risultato che la United decide di acquistare il lavoro di Schulz, che nel frattempo ha approfondito i suoi personaggi e li ha dotati di caratteri più definiti. Tutto sta mettendosi a fuoco nel modo giusto e il 2 ottobre del 1950 vengono pubblicate le prime vignette dei Peanuts. Il nome è un'idea della United per evitare di confondere i Lil Folks con i titoli di altri fumetti. A Schulz inizialmente il nome proprio non piace. È un nome totalmente ridicolo. Non ha significato, crea confusione e non ha dignità. E io credo che il mio umorismo abbia dignità. Però la United comincia a vendere il lavoro di Schulz. Arrivano 7 grandi quotidiani come il Washington Post, il Chicago Tribune. All'inizio le uscite sono feriali, dopo 2 anni esce anche una versione domenicale dei suoi lavori. Insomma, in breve tempo i Peanuts diventano un vero e proprio successo. Hai mai provato la sensazione di non riuscire a smettere di sorridere? E il cuore ti batte forte nel petto? Provi a stare in piedi ma le gambe ti diventano molli. E più o meno in questo periodo Charles incontra una ragazza dai capelli rossi che gli piace tanto. Il suo nome è Donna May Johnson, lavora come contabile nella scuola d'arte dove lui insegna arte del fumetto. He came by my desk. Venne alla mia scrivania e iniziò a parlarmi. In questo modo sapeva dove fosse la mia scrivania e così il giorno dopo trovai un biglietto. A message from him. Schulz è molto innamorato della ragazza dai capelli rossi, ma la storia non ha un lieto fine e ce la racconta proprio Schulz in persona. Era una ragazzina con i capelli rossi e lavorava come contabile. Ci conoscemmo mentre io ero l'allenatore della squadra femminile di softball e credo che giocasse in seconda base. E mi piaceva un sacco. Ogni tanto uscivamo insieme, ma nel frattempo vedeva anche un altro ragazzo. E io mi dissi che non avrei mai voluto farmi coinvolgere in una situazione in cui avrei dovuto competere con un altro uomo. In ogni caso, era la primavera del 1950 e andai a New York per firmare il contratto per iniziare a disegnare le strisce dei Peanuts. E quando tornai indietro le chiesi di sposarmi, ma lei scelse l'altro ragazzo. Ed essere rifiutato fu davvero un brutto colpo. Which is a bitter blow, you know, to be turned down. Apparentemente lui si consola in fretta. Nel 51, un anno dopo, si sposa con Joyce Alverson, con la quale avrà 4 figli. Però questo rifiuto diventa forse ispiratore di uno dei più famosi e misteriosi personaggi dei Peanuts, Charlie Brown, che in fondo è un po' l'alter ego di Schulz. Si innamora della ragazza con i capelli rossi, che non avrà mai un nome e mai si vedrà nelle strisce. Solo una volta nel 98, 37 anni dopo che viene nominata per la prima volta, Schulz disegnerà una striscia in cui lei compare in silhouette mentre balla con Snoopy, e ovviamente non con Charlie Brown. Insomma, dobbiamo comunque ringraziare Donna May Johnson per aver deciso di non sposare Schulz, così come ringraziamo Beatrice per non esserci stata con Dante, Laura con Petrarca, Silvia con Leopardi. Insomma, se tutti questi si fossero sposati e fossero andati a vivere assieme, l'arte sarebbe orbata di molte grandi opere. Dopo qualche anno trascorso in Minnesota, i coniugi Schulz si trasferiscono in California e Charles continua a lavorare alacremente. Nel 52 è uscito il primo libro dei Peanuts, seguito da molti altri, e dopo qualche anno la tecnica di Schulz si affina, i disegni sono sempre più definiti, anche se il tratto rimane sempre semplicissimo, ma quello che colpisce è soprattutto il linguaggio degli eroi di Schulz. Fagli il contropelo, Charlie Brown. Fagli il vecchio lancio in testa. No, non posso farlo. Non sarebbe leale. Non sarebbe leale? Senti chi ci fa della morale tutto ad un tratto. Il vecchio tira e molla è troppo leale per fare un lancio in testa. Hai dimenticato come i primi coloni trattavano gli indiani? E il modo in cui li prima nei vecchi del film che si vedono in giro. Sono e morali quelli. I dirottamenti di aerei hanno qualcosa di morale, secondo te, morali, Charlie Brown? Le trovi queste cose, Charlie Brown? Definisci la moralità. La rete delle nostre autostrade è un esempio perfetto. Hai di quel che cerco di recentemente? Dire. E che cosa ne dici della faccenda della contestazione, Non vinciamo mai un incontro, ma facciamo delle discussioni interessanti. Questi non sono bambini che dicono cose come gli adulti. Credo che se prestate davvero attenzione scoprirete che i bambini dicono davvero cose che sono naturalmente adulte. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Charles Schulz, il padre, il deus ex machina, il creatore massimo dei fumetti più famosi del mondo. I Peanuts, cresciuto come figlio unico in una tranquilla famiglia del Minnesota, è timido, è solitario, attaccato ai genitori, ma con una grande passione che è il disegno. E grazie ai genitori, ma soprattutto ovviamente grazie al suo talento, che lui crea i Peanuts nel 50. È un mondo particolare, una sfera al di là del tempo e dello spazio, popolata da bambini che dicono cose sagge e profonde. L'eroe principale, o l'antieroe se preferite, è Charlie Brown. Il nome sembra sia stato preso da un collega di Schulz alla Art Instruction, anche se per molti versi questo bambino dalla testa rotonda somiglia almeno nel carattere a Schulz, però non è l'unico. Come spesso ha detto lui stesso, c'è un po' di Schulz in ognuno dei suoi personaggi. Tutti gli altri caratteri sono parti di me stesso. Credo che sarebbe impossibile creare dei personaggi e dargli una personalità senza che ci sia un pochino di me stesso dentro. Insomma, i primi personaggi sono Charlie Brown e i suoi amici Shermie e Patty, che però non è la piperita Patty che conosciamo noi, che è nata nel 66. In questa primissima striscia ci sono Shermie e Patty seduti su un muretto che osservano Charlie Brown avvicinarsi. Shermie saluta Charlie continuando a ripetere tutto il tempo "Ciao grande vecchio Charlie", ma appena Charlie li supera, Shermie dichiara di odiarlo. E questo è un sentimento che non era mai stato espresso prima. I bambini prima erano tutti buoni, bravi, belli, non avevano una testa a forma di palla da baseball, non erano fatti oggetto di odio e di scherno. Insomma, la novità anticipa i tempi, come al solito genera un po' di perplessità, ma le novità sono quelle che funzionano. E dei tre protagonisti della prima striscia, comunque quello che resiste nel tempo è il più forte, il più caratterizzato, che è Charlie Brown. Charlie Brown is a nice kid. Charlie Brown è un bravo ragazzo. Ho sempre pensato che avrei voluto avere Charlie Brown come vicino quando ero piccolo, perché credo che lui ed io avremmo amato le stesse cose, avremmo giocato a palla insieme e insieme ci saremmo divertiti molto. E poi c'è l'altro grande protagonista dei Peanuts, il cane Snoopy. Anche questo è un personaggio che acquista spessore solo dopo qualche tempo. All'inizio è un semplice cane e poi il suo carattere diventa sempre più umano e fa cose al di là delle normali aspettative. Ehi, Snoopy, sveglia. Guarda, hanno portato una lettera per te. Caro cane, abbiamo il piacere di informarti che sei uno dei finalisti per il premio Cane dell'Anno. Vivissime congratulazioni! Il premio Cane dell'Anno! Sei tra i finalisti, non ci posso credere! Per partecipare alle finali del premio Cane dell'Anno, per prima cosa bisogna compilare il modulo allegato. Sulla prima riga va il nome del proprietario, Charlie Brown. Non mi dire che questa cosa ti mette in imbarazzo. Snoopy è un tipo con uno strano carattere. Credo che consideri se stesso come uno molto indipendente, ma noi sappiamo che non lo è. In un certo senso è come molti di noi. Quando si mette davvero nei guai, si rifugia semplicemente nella fantasia e cerca riparo in essa. Linus invece nasce solo nel 52, inizialmente un bambino in fasce, però nel giro di pochissimo tempo cresce, diventa un bambino che ha solo 2 anni al massimo meno di Charlie Brown, ma come sapete, insomma, la creatività nei fumetti non ha e non deve avere limiti. Linus è un bravo piccoletto. Credo sia un buon amico per Charlie Brown. Non so bene per quale ragione abbia così bisogno di quella coperta, perché spesso sembra essere il bambino più sicuro del gruppo. Forse è la coperta che lo tiene su, non so. E poi c'è Piperita Patty, che in inglese si chiama Peppermint Patty, nasce nel 66, 16 anni dopo la prima striscia, e questo è il periodo d'oro dei Peanuts. Negli anni 60 diventano un lucido commento alla vita sociale dell'America, e anche Piperita Patty, così diversa dalle ragazzine vestite di rosa o di bianco dell'epoca della Barbie, è in qualche modo una critica neanche tanto velata agli stereotipi applicati ai bambini. Pronto, Ciccio? Sono Piperita Patty. Senti, Ciccio, hanno organizzato una di quelle feste danzanti a scuola. Sai, quelle in cui le ragazze invitano i ragazzi. E allora io... No, non volevo invitare te, Ciccio. Santo cielo. Volevo parlare con Snoopy, il tuo interbase, quel bambino con il naso grosso. Pensai che Piperita Patty fosse un nome fantastico per un personaggio, così mi dissi che dovevo fare in fretta ad usarlo prima che lo facesse un altro. A quei tempi avrei voluto molto creare un gruppo separato di personaggi diversi, perché temevo che il fumetto fosse troppo orientato verso i maschi, fra Charlie Brown, Linus e gli altri. Alla fine Mercy incontra Piperita Patty, chiamandola sempre capo, e non saprei dire perché. Ma col tempo diventano davvero buone amiche. Mi piace molto la loro relazione. Si prendono in giro, si fanno gli scherzi, ma sono anche molto leali l'una con l'altra. E a mano nascono nuovi caratteri meravigliosi e nuovi personaggi, come Frida, la bambina ossessionata dai suoi riccioli naturali, e poi c'è Pigpen, il bambino sempre sporco, e poi c'è Lucy, la sorella di Linus, e poi c'è Sally, che invece è la sorella di Charlie Brown, perennemente innamorata di Linus, e poi c'è il mitico Woodstock, l'uccellino amico di Snoopy, che parla con un alfabeto tutto suo. Insomma, anche i caratteri si definiscono sempre di più. Charlie Brown, per esempio, rimane sempre al centro del fumetto, però ha sempre la sua insicurezza che non lo abbandonerà mai. Oh! Che è successo? È molto semplice. Charlie Brown è stato colpito da una battuta. C'è nessuno qui che si intende di pronto soccorso? Probabilmente non è niente di grave. Basterà un soccorso non tanto pronto. Tieni, corri giù alla fontanella e bagna questo fazzoletto di acqua fresca. Mm? Ma tu vuoi scherzare? Per la testa di Charlie Brown ci vorrà un lenzuolo. Sto morendo e sento solo delle offese. I lettori vorrebbero che Charlie Brown riuscisse a dare un calcio alla palla almeno una volta. Ma sarebbe un errore terribile, perché distruggerebbe quello che veramente sta alla base della striscia. Forse il fatto che Charlie Brown non riesca mai a calciare la palla, non riuscirà mai a far volare l'aquilone, non si dichiarerà mai alla bambina coi capelli rossi, forse tutto questo sta anche a significare che l'infanzia in fondo è un'età un po' crudele, che non è facilissima da vivere. Questa è una cosa della quale noi genitori spesso ci dimentichiamo. It's difficult to be a child, it's difficult to grow up. È difficile essere un bambino, è difficile crescere. Credo che ci sia una vera lotta che avviene lì nel cortile dove si gioca. Ci sono sempre i ragazzini cattivi, i bulletti, c'è sempre quel terribile senso di insicurezza. Quindi, in un certo senso, si può dire che c'è questo alla base di tutto, che è difficile essere un bambino piccolo e forse è intorno a questo che gira tutta la storia. That's really what it's all about. E intanto per Schulz invece le cose diventano sempre più facili. Per almeno 40 anni le sue strisce vengono considerate tra le migliori, se non le migliori in circolazione. Sono fonte di ispirazione per tutti i cartoonist arrivati dopo di lui. E quello che sorprende non è solo l'incredibile umanità dei suoi personaggi, ma la capacità dell'autore di affrontare in maniera leggera e insieme profonda i grandi appuntamenti della crescita, e poi un sincero impegno nei confronti di tanti temi di attualità, dal razzismo alla sessualità, alle differenze tra bambini perfetti proposti dai media in generale e la realtà piena di caratteri diversi e spesso problematica. E un'altra caratteristica apprezzabile di Schulz è quella di non avere mai avuto bisogno di usare la violenza e né il linguaggio sporco per dare un pizzico in più ai suoi personaggi, perché Charlie Brown e i suoi amici hanno altri problemi a cui pensare, hanno problemi metafisici, non devono ribellarsi ai genitori, devono gestire le loro nascenti ansie ed ossessioni. Oh, definitely. It's much easier to be vulgar. Oggi è molto più facile essere volgari. Ho ricevuto visite di molte persone che appartengono alla cultura underground, che può essere volgare quanto vuole. E gli ho detto che credono di fare qualcosa di così meraviglioso e originale, ma che secondo me è molto facile. Fanno tutti la stessa cosa volgare. Ma vi sfido a fare quello che io ho fatto per 45 anni senza mai fare niente che sia anche un remotamente volgare. E non credo che questi ragazzi possano farlo. Negli anni 80 arrivano nuovi fumetti, Garfield, Calvin e Hobbes, però la fama dei Peanuts è scalfita solo in parte. Considerate che nel frattempo il merchandise ha fatto guadagnare al suo creatore una cifra che è superiore al miliardo di dollari, e tutto questo senza cambiare di una virgola il suo stile per compiacere il pubblico. Credo che in nessuna forma di creatività ci si debba preoccupare del proprio pubblico. Sarebbe un errore fatale. È impossibile sedersi e decidere che farai un bel quadro. Quello che fai è per prima cosa perché ti piace farla, e poi, se sei fortunato abbastanza, piacerà anche agli altri. Altrimenti non c'è niente che tu possa farci a riguardo. Schulz intanto si è trasferito in California, poi nel 66 c'è un incendio nel suo studio, lui con la famiglia si trasferisce a Santa Rosa, dove vivrà per il resto della sua vita. Nei primi anni 70 divorzia dalla moglie, anche per colpa di un'avventura con una ragazza di 25 anni, nel 73 si risposa con una signora che si chiama Jean, con la quale resterà fino alla sua morte. Però anche lui ha dei momenti bui. Nel 1988 due malviventi gli entrano in casa cercando di rapire sua moglie. Il tentativo fallisce ma lascia dei segni. Intanto la salute di Schulz comincia a non essere più perfetta, ha un intervento di bypass e per l'occasione perfino Reagan lo chiama per fargli gli auguri. A questo comincia ad aggiungersi un forte tremore alla mano che a volte lo costringe a tenersi fermo il polso per andare avanti a disegnare, però lui continua a produrre le sue strisce sempre da solo. E poi nel 99 gli viene diagnosticato un cancro al colon, quello che lo porterà l'anno dopo alla morte. Per colpa della chemioterapia, del progredire della malattia, lui realizza che non riesce più a disegnare i suoi peanuts, decide di annunciarlo al pubblico con una lettera. Sarà l'ultimo legame con tutti coloro che per anni l'hanno seguito fedelmente, e nel suo testamento lascia come disposizione che nessuno possa continuare il lavoro al posto suo e che i peanuts finiscano con lui, e io approvo scelte di questo genere. Cari amici, ho avuto la fortuna di disegnare Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. È stata la realizzazione di tutte le ambizioni della mia infanzia. Sfortunatamente non sono più in grado di mantenere il ritmo di programmazione di una strip quotidiana. La mia famiglia non desidera che i peanuts siano continuati da un altro e perciò annuncio il mio ritiro. In tutti questi anni sono stato riconoscente per la correttezza dei nostri editori e il meraviglioso sostegno e affetto espressomi dai fan del fumetto. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, non potrò mai dimenticarli. Charles Schulz muore nel sonno il 12 febbraio del 2000. Il giorno dopo, il 13 febbraio, viene pubblicata l'ultima striscia dei Peanuts in una intervista rilasciata poco prima di morire. Per la prima volta lui si pente di non aver mai fatto calciare quel pallone a Charlie Brown, e con le lacrime agli occhi dichiara: tutto un tratto ho pensato, quel povero ragazzo non ha mai nemmeno avuto modo di dare un calcio al pallone, che brutto tiro che gli ho fatto, non ha mai avuto la possibilità di dare un bel calcio. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, oppure 18.000 colpi d'ala, cioè 18.000 vignette che hanno consegnato i Peanuts, e quindi Charles Schulz, il loro padre, il loro creatore, alla storia del fumetto e anche alla storia del costume degli ultimi anni della nostra società. Se avete delle segnalazioni da fare o volete mandare dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi nei miei Facebook, Twitter, nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.